infiniti rammenti di intense ispirazioni, tra rocche andavano lenti su accese discussioni, di un dio morto e di piogge che scendevano a lavare, rasserenando i cieli d'un mondo da cambiare. Un ragazzo cantava chitarra e fantasia, dei Beatles, degli Stones, finché non svanì via, su un grande prato verde di giovani alla Rai. Non perdere le speranze e non tradirle mai. Di colpe disperate gridavano altri, ma poi in coro chiedevamo che colpa abbiamo noi. Non si può giudicare soffocati nel rancore, ma cerca di sperare in un mondo d'amore. Mani di sale, di sole bianche, mondi d'amore, strade più stanche, mondi d'amore più tristemente sfiori. Sbocciavano quei sogni, fiori messi nei cannoni, ma poi voltavano pagina e cambiava le canzoni. Da fragili utopie a un più sordo rombo, non più anime pie in quegli anni di piombo. Cantori impegnati d'odiata borghesia, e tu con umiltà un violoncello via. È d'obbligo ora il politico nell'interpretazione, contestazioni e rabbie d'una generazione. E la storia racconta ciò che oggi è sincero, dopo un mattino tragico non sembra più vero, con nuove confusioni tra finti e nuovi eroi, ritorna anche gli antichi e ci rincontriamo noi. Strade di sale, di sole bianche, mondi d'amore, mani più stanche, mondi d'amore teneramente.